Mix 24, i gialli della storia. Per me il 77 è stato un momento di libertà assoluta, di libertà talmente profonda da non poter durare molto di più di quello che è effettivamente durato. Il 77 per me già dal marzo è la fine di qualche cosa, è una fine dolorosa, una fine spesso pesante, ecco, che addirittura ho in gran parte rimosso, devo dire. Il movimento non era nato per fare la guerra, per quanto mi riguarda in quei giorni. Il movimento era nato più che altro per produrre una cultura diversa. In 1977 è un anno cruciale nella storia degli anni di piombo, l'anno della grande rabbia, di una nuova rivolta studentesca degenerata nell'estremismo politico con le pistole P38 esibite nei cortei. Eppure il movimento del 77 non è stato solo questo. A Bologna, per esempio, prima che anche lì esplodesse la violenza, quell'anno è stato un anno di grandi passioni, con la nascita delle prime radio libere, l'ironia trasgressiva degli indiani metropolitani e quella che all'epoca si chiamava la controcultura. E noi oggi a Mix 24 vogliamo raccontare anche questo, la storia del 77 a Bologna, dai giorni felici di Radio Alice a quelli violenti e tristi di marzo, con l'uccisione di Francesco Lo Russo e la violenza che ne è seguita, fino al suo amaro epilogo con l'eroina e la lotta armata. E racconteremo questa storia con le testimonianze dei diretti protagonisti che ci spiegheranno le loro emozioni di allora e di oggi. Qui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. Non è facile spiegare le passioni di una generazione. E raccontarle a chi è venuto dopo può risultare per gli uni una fatica inutile e per gli altri un chiacchiericcio vago, insopportabile. Ma è uno sforzo che va fatto. Perché è solo se si attraversa il mare tumultuoso della memoria sociale che si può archiviare il passato e costruire il futuro. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Noi siamo i figli dei sessantottini e siamo i figli di quel periodo dove tutto era stato smontato, ma nulla era stato ricostruito. Le persone che partecipavano al 77, ognuna nel suo settore, ognuno nel suo modo di esprimersi, aveva un'esigenza intima, profonda, che era quello di vivere sulla propria pelle quello che stava facendo. Le scelte sono tutte state scelte molto radicali. Chi sceglieva azioni violente le sceglieva fino in fondo. Chi sceglieva la parte più intellettuale della politica poi ha tentato di fare quello. Dal 77 sono usciti gli artisti, cioè ognuno ha tentato di fare di questo periodo il centro totale della propria esistenza. All'inizio di tutto, secondo me, c'era davvero il vuoto. Ecco, questa è la cosa importante, e quel vuoto che a 18 anni, a 20, si avverte in modo lancinante, in modo drammatico, è stato riempito da un'esperienza collettiva. Cioè tanti di noi sono andati lì, proprio in quella città, aspettandosi qualche cosa. E qualche cosa che poi a un certo punto abbiamo fatto noi. 1977 è una data cruciale nella storia dei cosiddetti anni di piombo, ma è anche l'anno di una grande rivolta nelle università italiane, la prima dopo il 68. E se a Roma la rabbia dei giovani si incanala sui binari dell'estremismo, Bologna invece diventa un laboratorio creativo, almeno all'inizio. A Bologna la crisi della politica, dei gruppi politici, intendo nell'area del movimento, tra i giovani come me di allora, insomma, era già molto avanzata, molto consumata. Il percepirci quindi nelle assemblee, nei meeting, nella piazza, nelle discussioni diffuse, fiume che non finivano mai, come grande movimento collettivo e non come gruppi che prendevano una posizione, che si contrapponevano ad altri gruppi e con cui bisognava schierarsi o da una parte o da un'altra, era chiarissimo, cioè noi eravamo un movimento. A Roma la situazione invece era completamente diversa, nel senso che comunque gli schieramenti organizzati, sia dell'autonomia e anche per contrapposizione anche di altre forze politiche, facevano sì che la percezione di sé come movimento fosse più difficile. A Roma in realtà fin dall'inizio è la violenza a farla da padrona. E quella che era nata come una protesta contro la riforma Malfatti, che introduceva nuove barriere al diritto allo studio, si trasforma in una rivolta totale contro il sistema. Gli scontri sono all'ordine del giorno, con i fascisti, con le forze dell'ordine e anche con la sinistra tradizionale. Al punto che il 24 febbraio il segretario generale della CGIL, Luciano Lama, viene cacciato in malo modo dall'università occupata. Bologna, in effetti, resta per diversi mesi un'isola felice. La rivolta c'è, infatti, ma si tinge fin da subito di trasgressione, ricerca, ironia e tanta creatività. A Bologna la prima fase del movimento è una straordinaria esplosione di creatività incontrollabile. Nel senso, io posso riportare la mia testimonianza: eravamo alle 11 di sera, uno dei primi giorni dell'occupazione dell'università, stavamo facendo una riunione in cui ci interrogavamo, vari ex militanti, giovani, eccetera, delle varie facoltà, cosa stava succedendo in definitiva, e sentiamo un gran chiasso ed era un corteo che si era formato tra una festa e l'altra, erano le 11:30 di sera, e andammo tutti in giro fino alla stazione, passando per Piazza Maggiore, tornammo all'università che era 12:30 e l'una. Il movimento che, mentre si ribella, perché qui di una rivolta insomma stiamo parlando, questo è unanimemente riconosciuto da tutti, pratica un nuovo modo di essere, nuove relazioni, nuove modalità di comunicazione, cioè pensa ancora che bisogna cambiare il mondo, come prima, ma ha una consapevolezza maggiore che il mondo lo si cambia a partire dal momento in cui vivi, esisti, lotti e sei in relazione con l'altro o l'altra. Io ero studente e facevo parte del movimento, però facevo anche fotografie. E siccome nel movimento chi sapeva fare fotografie faceva fotografie, chi sapeva scrivere scriveva, chi sapeva fare un drago faceva il drago, chi sapeva suonare suonava nella banda del movimento. Ognuno metteva a disposizione del movimento le proprie capacità intellettuali, culturali, artistiche. Ma cosa vogliono quei giovani? Vogliono tutto. E la riforma dell'università è solo un pretesto. La scommessa che mi sembra che la nostra generazione ha fatto in quell'occasione era che sarebbe stato possibile essere felici. Mentre il messaggio che è arrivato dai nostri genitori è stato quello che la vita è dura, che la vita è sacrificio e sofferenza. Quando poi in qualche modo ci si è risvegliati dal sogno, mi verrebbe da dire più che sbornia, lo chiamerei una dimensione di sogno dove tutto è possibile, è stata dura accettare la realtà con i suoi limiti. La finalità di questa operazione, di questo rinnovamento del linguaggio, è una finalità chiaramente di carattere sociale. L'idea che usando linguaggi più adeguati, linguaggi più innovativi, si potesse arrivare a un maggior numero di persone e si potesse coinvolgere moltissima gente. In parte credo che questo sia vero e l'esperienza di Radio Alice l'ha rappresentato direttamente. Amo la radio per... Radio Alice diventa la voce della rivolta. Il megafono di una comunità desiderosa di sperimentare tutto e con un disperato bisogno di urlare al mondo la propria diversità. Qui è nata Radio Alice nel 1976. Una radio perché in quegli anni era difficile avere accesso ai mezzi di comunicazione di massa. E una radio in quel momento, un momento di rinnovamento del mercato radiotelevisivo dopo la sentenza della Corte Costituzionale che in una qualche misura liberalizzava l'accesso, sembrò una grande possibilità che volevamo sfruttare. C'è in effetti un rapporto ambiguo tra la città di Bologna e questo strano movimento di studenti. Un rapporto in cui spesso la diffidenza reciproca ha la meglio sulla curiosità. A far paura sono soprattutto parole d'ordine come esproprio proletario, autoriduzione dei prezzi, assalto alla città e più in generale il clima di illegalità diffusa in cui cresce il movimento, che a volte ha le sue ragioni, ma rifiuta ogni mediazione. Ma autoriduzioni, questo episodio mi sembra abbastanza illuminante. Un giorno, credo 100-200 ragazzi finirono all'ospedale intossicati dalla mensa. Noi andammo giù, guardammo le condizioni della mensa e erano spaventose. Con questa gente in ospedale è nata questa idea. Da domani andiamo a mangiare nei ristoranti buoni della città. E alla fine questi gruppi, che erano sparsi, facevano finta di non conoscersi, saltavano fuori, tiravano fuori un volantino, pagavano 500 lire di allora, che era il prezzo della mensa, e rivendicavano il loro diritto di essere alimentati in un modo decente. No, non facevo le autorizzazioni nei ristoranti. Ero una delle moltissime case in cui avevano fatto l'autorizzazione dell'affitto. Mi sembrava che autoridursi l'affitto fosse molto più proficuo che non andare a straforarsi di cibo in un ristorante, senza per questo giudicare male quelli che lo facevano naturalmente. La rottura si consuma la mattina dell'11 marzo, quando nella città universitaria viene ucciso lo studente di lotta continua Francesco Lorusso. È uno shock per tutti, per il movimento e per la città. Una ferita che innesca una catena di reazioni di cui nessuno, da una parte e dall'altra, riesce a mantenere il controllo. La mattina dell'11 marzo un gruppo di studenti del movimento va a contestare un'assemblea di Comunione Liberazione. È un episodio di contestazione uguale a tanti altri che succedevano in quegli anni a Bologna. Quello che cambia è lo scenario di risposta. Le cariche sono spropositatamente violente, i ragazzi scappano e a quel punto un carabiniere prende la mira, spara più volte e uno dei proiettili colpisce Francesco mentre scappa. I segni di quei proiettili sono ancora in via Mascarella. Tutto il corteo si muove verso il centro, passa in Piazza Maggiore, gli scontri cominciano grosso modo all'altezza della sede della Democrazia Cristiana, proseguono poi in stazione, in via Dipendenza, in tutte le vie, diciamo, centrali. L'irruzione della morte snatura il movimento bolognese, lo costringe, cioè, a cambiare pelle e a far propria quella logica cupa della violenza che già prevale in molte altre città italiane. Si innalzano barricate, si bruciano auto e gli scontri con la polizia, sempre più duri, vanno avanti per ore. Quando si sono viste così molotov, barricate, auto incendiate, posso capire che certamente c'è una reazione che è quella di darsi alla fuga, di chiamare la polizia, insomma. Ma questo però significa aver criminalizzato un grandissimo gruppo di persone che non intendeva affatto percorrere questa strada, invece. Ho sempre pensato appunto che fosse inevitabile, cioè che di fronte a quella cosa non potevamo che andare in piazza e batterci con la polizia. Era istintivo, cioè da una parte c'era la tradizione di quegli anni che a un gesto dello Stato brutale bisognava rispondere in modo deciso. Dall'altra parte c'era tanta gente che era disperata, che aveva visto morire uno di loro, che non è che stava tanto a ragionarci. Il 12 marzo l'università viene sgomberata dalle forze dell'ordine che murano i posti di ritrovo del movimento, ritenendoli covi della sovversione. Intanto molti studenti scendono a Roma per una manifestazione nazionale che si trasformerà però in una battaglia campale. Doveva essere una manifestazione che allargava l'area di consenso dentro le città universitarie. Era una manifestazione in cui però naturalmente era piombato come un macigno la notizia dell'uccisione di Francesco Lorusso. Contemporaneamente, mentre a Roma succede di tutto e molti di noi tornano stravolti dall'aver assistito a una vera e propria battaglia con armerie svaligiate, colpi d'arma da fuoco da ogni parte, a Bologna le forze dell'ordine entrano a Radio Alice e chiudono la radio appunto che dava le notizie della rivolta, che poi era la radio storica del movimento. Di colpo l'aria si fa irrespirabile. E se a Roma si spara con l'autonomia operaia che mostra il suo vero volto, anche Bologna sembra cedere alla follia. È l'ultima fiammata della rivolta, che il ministro degli interni dell'epoca, Francesco Cossiga, decide a quel punto di sedare una volta per tutte, mandando a Bologna i carri armati. È la prima volta che succede nella storia dell'Italia repubblicana. La mattina del 13 marzo l'ordine regna a Bologna. I blindati e le forze della polizia e dei carabinieri controllano completamente tutto il centro storico. La devastazione interiore è stata molto forte, cioè piangevamo tutti come vitelli, era veramente orribile vedere questa ferraglia davanti all'università. Per tanti è la fine di un sogno, per altri invece è la fine di un incubo. Certo è che al risveglio Bologna non è più la stessa. È cambiato infatti radicalmente il rapporto fra il movimento e la città. A separarli ora c'è una barriera insormontabile e che non cadrà mai più. Questa roba qui fu terribile. Per tantissimi ragazzi che pure vivevano una sorta di vicinanza o comunque di tolleranza nei confronti anche della sinistra tradizionale fu uno shock forte. E quindi quel momento fu il simbolo della rottura. Dopo, niente è come prima. E il movimento finisce per trascinarsi stancamente, fiaccato dagli arresti e paralizzato dai divieti. Rari si fanno gli sprazzi di vitalità creativa e quando ci sono, sanno di déjà vu un po' malinconici. Intanto, nelle altre città, la violenza dilaga. A Roma, il 21 aprile, durante violenti scontri all'università, viene ucciso a colpi di arma da fuoco l'agente di polizia Settimio Passamonti. Il 12 maggio muore invece Giorgiana Masi, studentessa, colpita alle spalle da un colpo di pistola dopo l'ennesima carica della polizia che vuole sciogliere un corteo non violento del Partito Radicale. A Milano, infine, il 14 maggio, nel corso di una vera e propria battaglia tra le forze dell'ordine e i gruppi dell'autonomia operaia, viene freddato l'agente di polizia Antonio Custrà. La foto del suo assassino, pistola in pugno e gambe divaricate, diventerà una delle icone più tristemente famose del 1977. È in questo clima, ormai avvelenato, che si prepara a Bologna il convegno nazionale del movimento, dal 23 al 25 settembre. Molti dei giornali di allora, che erano un po' meglio di quelli di oggi, comunque erano tutti proiettati su ci saranno gli scontri, non ci saranno gli scontri, cosa faranno gli autonomi, come reagiranno, eccetera. Ebbene, quel convegno si concluse con una manifestazione enorme in cui non successe assolutamente nulla, in cui noi bolognesi guidammo uno sterminato corteo. La città stavolta non si chiude a riccio, anzi accetta la sfida. E alle decine di migliaia di giovani che arrivano a Bologna da tutta Italia vengono offerti spazi per la discussione e pasti caldi. L'apertura è timida, ma c'è. Tutto fila liscio in realtà e il convegno diventa un grande happening in cui c'è spazio per tutte le anime del movimento. dai macrobiotici ai disoccupati napoletani, dagli autonomi alle femministe e agli indiani metropolitani. Ci sono tutti, eppure gli organizzatori non se la sentono di cantare vittoria. Mi sembra che ci sia un problema, cioè che sia molto difficile discutere. Le assemblee sono forse troppo affollate, ci sono dei discorsi spesso incomprensibili. Non mi sembra che venga fuori un vero discorso politico da tutto questo. Rispetto a quel tipo di delusione provata e senso di sconfitta provata dopo l'11 marzo, il convegno di settembre ne era un po' la ratifica finale. Ricordo che quei giorni io non li passai dentro al convegno, io organizzai una sorta di salotto in Piazza Verdi, misi due divani e presi un samovar e offrivo il tè alle persone, invitavo a sedersi lì e a chiacchierare sostanzialmente. Noi eravamo a quel punto esauriti, stanchi, e quelli che sono arrivati erano invece politici di professione, anche se erano cosiddetti autonomi, però erano molto organizzati, erano lì per imporre delle cose che già tutti insieme pensavano, che era il contrario di quello che eravamo noi. È proprio nella bolgia del Palasport che il movimento del 77, almeno a Bologna, consuma la sua fine. Travolto dalle intemperanze verbali dei gruppi dell'autonomia operaia che vogliono imporre a tutti la loro folle idea di assalto allo Stato. Sicuramente fu il canto del cigno, nel senso che quelli che pensavano che il convegno potesse lanciare una ripresa generalizzata delle lotte, delle mobilitazioni, dei movimenti, non era da quel convegno che potevano avere la risposta. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. All'epoca nessuno parlò di fine, piuttosto di riflusso, di chiusura, cioè nel privato per la stragrande maggioranza di quei giovani, molti dei quali, delusi e incapaci di riprendersi dalla sbornia, si lasciano avvinghiare dall'eroina. Altri giovani, invece, si lasciano sedurre dalla lotta armata e finiscono per alimentare una nuova stagione del terrorismo, quella più buia. Non posso negare che in migliaia, non in centinaia, di persone l'orizzonte che la trasformazione della società fosse possibile attraverso azioni violente, anche senza ritorno, seppure in chiave difensiva, seppure in un tempo di là da venire, era patrimonio comune. Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. È il proverbio più citato a Bologna nel 77 e per molti versi racchiude l'essenza di quella strana stagione, delle grandi passioni che almeno all'inizio l'hanno animata, anche se poi sono state deviate, e delle grandi paure che ha suscitato e che per questo hanno portato un'intera città a schierarsi contro i suoi studenti. Ormai quella ferita dovrebbe essersi rimarginata ed è tempo di capire. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.